La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al re Giorgio VI del Regno Unito. Dopo il trionfo agli Oscar del film Il discorso del re, la vicenda umana del padre dell'attuale regina Elisabetta desta nuove curiosità per la sua battaglia contro la balbuzie e il panico che lo impietrivano durante i discorsi pubblici. Ripercorriamo il ruolo di questo re con Andrea Romano, docente di storia contemporanea all'Università di Tor Vergata di Roma. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Miglior film, migliore attore protagonista, migliore sceneggiatura, miglior regista. Il film Il discorso del re di Tom Hooper con Colin Firth e Geoffrey Rush ha fatto il pieno nella notte degli Oscar. La storia è quella del principe Alberto, duca di York, secondo figlio di re Giorgio V d'Inghilterra, affetto da balbuzie, che dopo la morte del padre e in seguito alla decisione del fratello maggiore, salito al trono il 20 gennaio del 1936 con il nome di Edoardo VIII, di abdicare per sposare l'americana Wally Simpson, diviene re suo malgrado, vince la balbuzie e riesce a guidare il paese nella guerra contro la Germania nazista. Al di là di alcune forzature e incongruenze dal punto di vista storico, il film è molto bello e ci ripropone la figura di un re, il padre della regina Elisabetta, timido e pieno di complessi, che vive il dramma di diventare re in uno dei momenti più tragici della storia inglese e mondiale, e che riesce a superare la sua balbuzie grazie al prezioso aiuto e all'amicizia del logopedista australiano Lionel Logg. Il film si conclude con lo storico annuncio alla radio da parte del re. La Gran Bretagna e la Germania sono entrate in guerra e il sovrano si rivolge alla nazione per esortare gli inglesi al patriottismo, elemento che, come sappiamo, risulterà decisivo. È il 30 settembre del 1939. Due giorni prima Hitler ha invaso la Polonia scatenando il secondo conflitto mondiale. In this grave hour, perhaps the most fateful in our history. In this grave hour, perhaps the most fateful in our history, I send to every household of my people, both at home and overseas, this message. I send to every household of my peoples, both at home and overseas, this message. Quello che avete appena ascoltato è il sonoro con le due versioni al confronto, quella originaria e quella del film, del passaggio storico del discorso del re alla nazione. Re quasi per caso, si direbbe. La decisione del fratello di abdicare scosse la Gran Bretagna e il mondo. In quanto re e numero uno della Chiesa anglicana, non poteva sposare una donna divorziata. L'11 dicembre del 1936, Edoardo VIII annunciò con queste parole la sua decisione di dimettersi, unico monarca britannico ad abbandonare il trono volontariamente. Conoscete tutti le ragioni che mi hanno spinto a rinunciare al trono, ma voglio che sappiate che nel farlo non ho dimenticato il paese e l'impero che come principe di Galles e recentemente come re ho cercato di servire per 25 anni. Ma dovete credermi quando vi dico che ho trovato impossibile portare il pesante fardello di responsabilità e di adempiere i miei doveri di re come vorrei, senza l'aiuto e il sostegno della donna che amo. Questa decisione è stata resa meno difficile per me dalla certezza che mio fratello, con la sua lunga esperienza nella vita pubblica di questo paese e con le sue qualità, sarà in grado di prendere il mio posto immediatamente, senza interruzioni o danni alla vita e progressi dell'impero. E ora abbiamo un nuovo re. Auguro a tutti felicità e prosperità con tutto il cuore. Dio vi benedica. Dio salvi il re. Abbiamo in linea il professor Andrea Romano, che è docente di storia contemporanea all'Università Tor Vergata e specialista di storia britannica. Professore, buonasera e grazie. Buonasera a voi. Abbiamo illustrato ai nostri ascoltatori la storia, appunto, che è narrata nel discorso del re, questo film molto bello, che ha riproposto la figura del principe Alberto che diventa re suo malgrado, ma al di là appunto della fiction e delle suggestioni che vengono dal film, dal punto di vista storico, qual è il ruolo che ebbe re Giorgio VI, a partire, se vogliamo, anche dal suo discorso famoso che chiude il film, in cui esorta gli inglesi a resistere ai nazisti? Beh, appunto, da quel momento, e siamo nel 39, subito dopo l'invasione nazista della Polonia e quindi dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il ruolo di Giorgio VI fu un ruolo di unificazione nazionale e quindi anche di emblema di una resistenza che si fece subito difficile per i britannici. Non dimentichiamoci che fino alla fine del 41 la Gran Bretagna rimase di fatto la sola potenza europea a fronteggiare la Germania dopo che la Germania invase e sconfisse la Francia, insomma, quindi si trattò di un periodo molto difficile per la Gran Bretagna e sicuramente il re unificò questa sensazione, di questo sentimento di resistenza. Ovviamente gli inglesi si identificarono in questo re anche nonostante, possiamo dire, la tempra morale di un re che fu un re che divenne re suo malgrado e che non bisogna dimenticare, prima dello scoppio della guerra, e questo è un tratto su cui il film è un po' omissivo, non era stato esattamente un eroe. Se ricordiamo il periodo del cosiddetto appeasement, quello che corre tra appunto il 37 e il 39, un periodo nel quale la Gran Bretagna, i governanti britannici cercarono di venire a patti con Hitler, sperando che appunto un compromesso con il nazismo avrebbe potuto evitare il conflitto. In quel periodo la monarchia e Giorgio VI non furono ostili all'appeasement. Ecco, questo è un tratto che il film tralascia abbastanza facilmente e rapidamente, passando per esempio dall'abdicazione al discorso dell'entrata in guerra, mentre proprio in quel periodo, in quei mesi, la monarchia svolse un ruolo anche ambiguo. Ecco, il ruolo della monarchia nella storia e nella società inglese, questo è un elemento di grande importanza per capire la Gran Bretagna nella sua storia, ma anche nella sua dimensione attuale, nella sua collocazione attuale all'interno dello scacchiere internazionale. Il film ci ripropone anche questo tema. Ci ripropone questo tema e ci ripropone qui correttamente anche il ruolo spesso diciamo istituzionalmente svuotato di potere politico che ha la monarchia. C'è un passaggio nel corso del quale nel film appunto il capo del governo britannico, alla vigilia dell'abdicazione di Edoardo VIII, dice di fatto al futuro Giorgio VI: guardate che noi sappiamo che il re ha una relazione appunto adulterina con una donna divorziata e se non arrivate all'abdicazione noi saremo costretti a dimetterci, dice il governo, e questa è la spinta che poi porta il re all'abdicazione. Quindi è il potere, come dire, democratico, politico-democratico, che spinge la monarchia a fare un passaggio, ed è una rappresentazione corretta. La monarchia è appunto un elemento di unificazione nazionale al di là del potere politico che incarna, e mi viene in mente la battuta di Orwell, che era certamente non un entusiasta monarchico, che diceva, però era un patriota, che diceva: gli inglesi, l'Inghilterra è una grande famiglia, è una famiglia guidata dai membri sbagliati, no? Perché poi lui era un socialista, però rimane una famiglia, e questo è un tratto appunto in cui anche gli antimonarchici si riconoscono, quindi la monarchia come un emblema dell'unità nazionale anche da parte di chi in fondo non riconosce a questo potere un'autorità morale autonoma. L'altro elemento di interesse che emerge da questa vicenda è appunto il patriottismo. Lo stesso re si rivolge agli inglesi e li esorta a resistere. Dopodiché, se guardiamo alla vicenda successiva, quello che accadrà a partire dalla resistenza che gli inglesi metteranno in campo contro l'attacco nella famosa battaglia d'Inghilterra, quello è un elemento decisivo sul serio, cioè gli inglesi ce la fecero anche perché si trovarono tutti uniti a combattere il comune nemico. Assolutamente sì, proprio i mesi, come dicevamo poc'anzi, i mesi in cui l'Inghilterra fu sola di fronte al nazismo, no? Perché poi noi sappiamo come è andata a finire, però nessuno sapeva, per esempio, del 1940 che gli Stati Uniti, nessuno era sicuro che gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra. Questo momento di unificazione nel pericolo, appunto, nell'ora più grave, come disse Churchill, no? Fu il momento in cui gli inglesi scoprirono, riscoprirono un patriottismo che negli anni 30 si era appannato. Gli anni 30 furono, in questo senso, il film lo rappresenta anche bene, furono un decennio tormentato per tutta l'Europa, ma anche per la Gran Bretagna. Furono un decennio nel quale ci furono molte simpatie in Gran Bretagna, sia verso il nazismo che verso il comunismo. Era molto diffusa, appunto, nella sinistra britannica, per esempio, un certo tipo di flirt con il comunismo sovietico, così come nella monarchia e anche nei, diciamo, nei circoli politici più alti, e questo si vede anche nel film. C'era, diciamo, una qualche simpatia per la Germania. Correttamente il film ricorda come Edoardo VIII non fosse, come dire, così ostile al nazismo, e comunque vedeva Hitler come un personaggio molto, molto autorevole. No, fu, ecco, gli anni 30 furono un periodo difficile e ambiguo e confuso per la politica britannica, e il riscatto arrivò proprio con la riscoperta del patriottismo di fronte al pericolo nazista. Ecco, e questo ci pone un altro interrogativo che riguarda in qualche modo la retorica e anche la capacità che aveva Hitler di dominare e di esortare le folle. In un passaggio del film addirittura il re è quasi come se ammirasse, sì, vedendo un filmato, la capacità di Hitler di riuscire a parlare alla sua gente. Questo è un altro elemento che fa riflettere anche sulla capacità dei mezzi di comunicazione. Allora c'era la radio, e oggi ce ne, ovviamente ne abbiamo molti altri, però di riuscire a governare e a dominare la situazione. Certamente, quelli sono gli anni, appunto la scena a cui fa riferimento lei è abbastanza divertente, c'è la figlia del re che dice: ma cosa sta dicendo papà Hitler? No, e il re risponde: non lo so, però sembra che lo dica molto bene, no? Ed è anche forse una battuta sulla mancanza di balbuzi in Hitler, forse da questo punto di vista. Però lei ha ragione quando ricorda come proprio in quegli anni fossero gli anni in cui da poco la politica aveva cominciato a usare la radio, no? E il papà di Giorgio VI, appunto Giorgio V, si vede ritratto mentre dà uno dei suoi discorsi radiofonici. Fu il primo re, Giorgio V, a usare la radio per trasmettere i propri messaggi, ma furono quelli i primi anni in cui la politica arrivò alle folle non solo attraverso la radio ma attraverso anche i cinegiornali, e questo si vede. E i cinegiornali furono molto usati durante la Seconda Guerra Mondiale. I discorsi di Giorgio VI, con tutti i problemi, appunto, che ormai conosciamo, erano regolarmente interrotti da applausi nei cinema britannici e londinesi, perché erano quelli momenti anche, appunto, di rappresentazione scenografica e filmica, appunto, del patriottismo. Non fu solo, naturalmente, una storia britannica, questo accadde in tutti i paesi coinvolti nel conflitto, però certamente in Gran Bretagna ricordiamo la straordinaria retorica di Churchill, no? Altro grande retore che proprio in quel periodo scoprì, e i suoi discorsi di guerra sono discorsi che ancora adesso, secondo me, sono interessanti da leggere. Apro una piccola parentesi, anche qui c'è una piccola inesattezza storica: Churchill sembra lì che fosse a favore del re Giorgio VI, in realtà lui tramò perché il fratello di Giorgio VI rimanesse al potere, quindi anche questa è una piccola mamma, insomma spessissimo i film, come è naturale, fanno alcune trasgressioni storiografiche. Beh, comunque, a parte queste imperfezioni, devo dire che poi il messaggio finale è forte, quindi il film è senz'altro da apprezzare. È un bellissimo film, una bella rappresentazione di una pagina interessantissima della storia europea, oltre che britannica, di quegli anni. Professore, molte grazie e buon lavoro. Grazie a voi.